Bello, si accoccola con un grugnito sul viso di Bloom rivolto in su, emettendo fumo di sigaro, accarezzandosi una grossa gamba. Vedo che Keating Clay è stato eletto vice direttore del manicomio di Richmond. E a proposito, le azioni privilegiate di Guinness sono a 16 e tre quarti. Cretino io che non ho comprato quel blocco che mi dicevano Craig Gardner. È la solita fortuna infernale che ho io, maledizione. E quel fottutissimo outsider butta via 20 contro 1. Spegne rabbiosamente il sigaro contro un orecchio di Bloom. Dov'è quel maledetto fottutissimo portacenere? Bloom, pungolato, chiappi soffocato. Oh, mostri, crudele! Bello, ne puoi chiedere dell'altro ogni 10 minuti. Implora, prega come non hai mai fatto in vita tua. Gli squadra sotto il naso le fiche e un sigaro immondo. Ecco, bacia, tutte e due, bacia. Si mette a cavallo e stringendo le ginocchia da cavallerizzo urla con voce aspra. Hep, hop, tratta, tratta, cavallino, perché Bambury è vicino. Lo monterò per il Gran Premio Eclipse. Si china da una parte e strizza brutalmente i testicoli della sua cavalcatura, urlando. Olà, un bel salto e via, ti medicherò io come si deve. Monta il cavallino saltandogli in sella. La signora va al passo, il cocchiere al trotto, il signore al galoppo, al galoppo, al galoppo, al galoppo. Flory tira la manica di Bello. Lascia salire me ora, ne hai avuto abbastanza. Io l'avevo chiesto per prima. Zoe, tirando la manica di Flory. Ora me, non te lo sei ancora finito, mignatta. Bloom, soffocando. Non posso più. Bello. No, ancora no, aspettate. Trattiene il respiro. Maledizione, attenti, il tappo sta per saltar via. Si stappa il di dietro, poi, stravolgendo i lineamenti, scorreggia clamorosamente. Oh, pigliala! Si ritappa. Sì, per Giove, 16 e tre quarti. Bloom, imperlandosi tutto di sudore. Non uomo, annusa. Donna. Bello, si rialza in piedi. Basta, col caldo e freddo. Quello che desideravi si è avverato. D'ora in poi sei svirilizzato e mio per davvero. Una creatura soggiogata. E ora la tua veste di punizione. Ti priverai dei tuoi indumenti maschili. Capito bene, Rubikine? E ti infilerai di sulla testa e le spalle la seta cangiante sontuosamente frusciante. E alla svelta, anche. Bloom si rattrappisce. Seta, ha detto la padrona. Grinzosa, raschiosa, devo toccarla con la punta delle unghie. Bello, indica le sue puttane. Come sono ora loro, sarai anche tu. Imparruccata con la permanente, tutta profumata, cosparsa di polvere di riso, con le ascelle depilate. Ti prenderemo le misure a pelle nuda. Ti stringeremo senza misericordia dietro busti di morbido traliccio con stecche di balena fino al bacino diamantato, estremo confine. Mentre le tue forme, più abbondanti di prima, saranno confinate nella gabbia di vesti strette, graziose sottovesti del peso di 2 once e frangine e cosucce che porteranno naturalmente lo stemma della casa, nuove creazioni di adorabile lingerie per Alice e un bel profumo per Alice. Alice avrà anche il suo tira-tira. Marta e Mary avranno dapprima un po' freddo in sì delicati rivestimenti di cosce, ma la leggerezza della trina arricciata attorno alle ginocchia nude ti ricorderà Bloom, graziosa soubrette dalle gote dipinte, capelli color senape e grandi mani e naso da uomo, dalla bocca ghignante. Mi son trovata le cose di lei 2 volte sole a Holles Street per far 2 risate. Quando le acque eran basse le ho lavate da me per risparmiare i soldi della lavandaia. Mi sono rivoltata le camicie. Era solo per economia. Bello, sogghigna. Lavorucci per far contenta mamma, eh? E ti sei pavoneggiata davanti allo specchio, con il domino addosso e le tendine abbassate, con le cosce a nudo e le tettine da caprone in varie pose di resa incondizionata, eh? Oh, c'è da ridere, quella sottoveste nera di seconda mano. E quella combinazione con le mutandine corte che si erano aperte alle cuciture l'ultima volta che Mrs. Miriam D'Andrade si fece violentare, e te le ha vendute lei all'Hotel Shelbourne, no? Bloom, Miriam, nero, demimondaine. Bello, sghignazza. Cristo onnipossente, questa sì che è bella! Eri davvero una bella Miriam quando ti tagliasti i peli della porta di servizio e te ne stavi poi facendo finta di essere svenuta sul letto con quella roba addosso, nei panni di Mrs. D'Andrade in procinto di essere violentata dal tenente Smith, da Mr. Philip Augustus Blackwell, deputato al Parlamento, dal signor Lacidarimo, il robusto tenore, da Bert dagli occhi azzurri, ragazzo dell'ascensore, da Harry Fleury, noto per la coppa Gordon Bennett, da Sheridan, il creso mulatto vogatore numero 8 della squadra della vecchia Trinity, da Ponto, il suo meraviglioso Terranova, e da Bobs, duchessa madre di Manor Hamilton. Sghignazza ancora. Cristo, non c'è di che far ridere un gatto siamese. Bloom, con un tremito nervoso delle mani e dei lineamenti. È stato Gerald a convertirmi al culto del busto quando facevo una parte di donna nel dramma viceversa alle scuole superiori. Fu il caro Gerald. Aveva preso quel vizio a forza di guardare il busto della sorella. Ora il carissimo Gerald usa un belletto color rosa e si indora le palpebre. Il culto del bello. Bello, con gioia perversa. Bello, facci respirare un momento. E quando prendevi posto a sedere con cautela donnesca, alzando i volant ondulati sul trono lucido per l'uso, Bloom, scienza, mettere a confronto i diversi piaceri che si possono provare seriamente. E poi è davvero meglio come posizione. M'è capitato spesso di bagnare bello, severamente, niente insubordinazioni. C'è la segatura là nell'angolo, se hai bisogno. Ti ho dato istruzioni rigorose, no? Falla in piedi, signorino. Ti insegnerò io a comportarti da gingilluomo. Se ne trovo traccia sulle pezze, ah, per tutti i diavoli, ti farò rigar dritto io. I peccati della tua vita passata si ergono contro di te. Molti, centinaia. I peccati della vita passata. In una confusione di voci. Ha sperimentato una forma di matrimonio clandestino con almeno una donna all'ombra della Chiesa Nera. Ha telefonato mentalmente messaggi irripetibili a Miss Dunn a un indirizzo di Dollar Street mentre si presentava indecentemente davanti all'apparecchio nella cabina telefonica. Con parole e con fatti ha incoraggiato francamente una sgualdrina notturna a deporre materia fecale di altro genere in una dipendenza inadatta all'uopo, annessa a locali disabitati. In cinque luoghi pubblici ha scritto a lapis messaggi in cui offriva la compagna di coniugio a ogni maschio ben fornito del suo. E non si è forse trattenuto per varie notti presso la fabbrica di vetriolo dall'odore ripugnante, in vicinanza di coppie amorose amoreggianti, per vedere se e cosa e quanto poteva? E non è forse stato a letto, brutto sudicio maiale, a mangiarsi con gli occhi un nauseabondo frammento di carta igienica usata, e usata bene, mandatogli in dono da una sozza prostituta, stimolata da una focaccina allo zenzero e da un vaglia? Bello, con un fischio acutissimo. Sentiamo, qual è l'oscenità più rivoltante di tutta la tua criminosa carriera? Tocca il fondo del truogolo. Vomita tutto fuori. Sii sincero, almeno una volta. Volti inumani, muti d'espressione, si affollano attorno, ghignanti, svanenti, cicalanti. Bulohum, Poldicock. Stringhe a un penny, strega di Cassidy, giovanotto cieco, Larry rinoceronte, la ragazza, la donna, la puttana, l'altra là, vicolo il. Bloom, non me lo chieda, il nostro giuramento reciproco, Pleasant Street, non pensavo se non la metà di, giuro su quel che ho di più sacro. Bello, perentoriamente. Rispondi. Ripugnante miserabile, insisto nel voler sapere. Raccontami qualcosa che mi diverta, qualcosa di sporco. Ho una bella storia di fantasmi. Ho un verso di poesia. Svelto, svelto, svelto. Dove? Come? A che ora? Con quante? Ti do appena 3 secondi. Uno, due, tre. Bloom. Docile. Gorgoglia. Io ririnaso camusai in riripugnante. Bello, imperiosamente. Ma vattene, bestia fetente. Tieni la bocca chiusa. Parla solo quando sei interrogato. Bloom si inchina. Padrone, padrona, domatore d'uomini. Alza le braccia, le cadono i braccialetti. Bello, satiricamente. Di giorno metterai a bagno e sbatterai la nostra biancheria maliolente anche quando noi, signore, non stiamo bene. E ripulirai le nostre latrine col vestito tirato su e un cencio legato alla coda. Non sarà una bella cosa? Le mette al dito un anello col rubino. Eccoci, con quest'anello di te prendo possesso. Di grazie, padrona. Bloom. Grazie, padrona. Bello. Rifarai i letti. Mi preparerai il bagno. Vuoterai i pitali delle varie camere, incluso quello di Mrs. Keogh. La cuoca, colore arancione. Sì, e poi li sciacquerai bene tutti e sette. Bada, se no te la dovrai sorbire come dello spumante. Bertela, calda bollente. Oh, bisogna che tu sia sempre zelante, se no ti farò delle belle prediche sui tuoi misfatti, Miss Ruby, e ti sculaccerò di santa ragione a culino nudo con le spazzole. Imparerai a capire quanto tu abbia errato nella tua condotta. La notte le tue mani aulenti di crema e adorne di braccialetti porteranno guanti con 43 bottoni e spruzzati di talco e con le punte squisitamente profumate. Per simili favori i cavalieri del bel tempo antico misero a repentaglio la vita. Ridacchia. I miei ragazzi saranno ammaliati a vederti così signorile. Il colonnello, soprattutto, quando verranno qui la notte prima di sposarsi, accoccolarsi la mia nuova attrazione dai tacchi dorati. Prima ti farò uno spregio, io stesso. Un tale dell'ippodromo che conosco si chiama Charles Albert Marsh. Sono stato proprio ora a letto con lui e con un altro signore dell'ufficio del registro. Sta cercando una ragazza tuttofare da assumere subito. Gonfia il petto, sorridi, giù le spalle. C'è qualcuno che fa un'offerta? La indica col dito. Per questo articolo ammaestrato dal proprietario, addestrato ad andare a prendere roba e riportarla col panierino in bocca. Si denuda un braccio e lo sprofonda fino al gomito nella vulva di Bloom. Ce n'è di spazio da fondarci dentro quanto si vuole. Come, ragazzi? Vi si è rizzato? Dà una punzonata sul viso di un offerente. Qua, pulisci il ponte e struscia dappertutto. Un offerente. Un fiorino! Il banditore di Dillon scuote il campanello. Il banditore. Barang! Una voce. Uno scellino e 8 pence di troppo. Charles Alberta Marsh. Deve essere vergine. Fiato dolce. Pulita. Bello. Batte colpi secchi col martelletto. 2 scellini. Ultimo prezzo e niente caro coi prezzi che corrono. 14 mani d'altezza. Toccare con mano e verificare la qualità. Maneggiatelo. Questa pelle vellutata, questi muscoli soffici, questa carne tenera. Oh, se avessi qui il mio punzone d'oro! E poi si munge bene. 3 galloni al giorno di latte fresco. Un animale da riproduzione di prima qualità, tenuto a far le uova entro un'ora. Il primato di produzione di latte intero del suo ascendente fu di 1.000 galloni in 40 settimane. Ehi, tesoro mio, su, fai la brava. Ehi, stampiglia il suo marchio C sulla groppa di Bloom. Ecco, Cohen garantito. Chi offre più di 2 scellini, signori? Un uomo dal volto scuro, con accento falsificato. 100 lire sterline. Voci sommesse. Per il califfo Harun al-Rashid. Bello, allegramente. Bene, avanti tutti. L'esigua gonnella, audacemente corta e tirata su fino al ginocchio, a mostrare un lembo di mutandina bianca, è un'arma potente. E poi ci sono le calze trasparenti, con giarrettiere verde smeraldo, e una lunga cucitura diritta che sale al di sopra del ginocchio, che sono un richiamo per i migliori istinti di un uomo di mondo blasé. Impara a camminare con passo leggero e manierato su tacchi Luigi XV, alti 4 pollici, l'inchino greco con groppa provocante, le cosce fluescenti, i ginocchi che si baciano modestamente. Esercita tutta la forza del tuo fascino su di loro. Compiaci i loro vizi gomorreani. Blum si nasconde sotto l'ascella, il viso imporporato, e frigna col ditino in bocca. Oh, so bene dove vuole andare a finire con questo discorso. Bello, a cos'altro puoi servire, creatura impotente che non sei altro? Si china e scrutando spunzona brutalmente col ventaglio le pieghe grasse delle anche di Blum. Su, su, gatto senza coda! Cosa c'è qui? Dove è andato a finire l'arnese riccioluto? Te l'han forse mozzato, mammolino? Canta, passerotto, canta! È mencio come quello di un ragazzino di 6 anni che fa la pipì dietro alla carrozzina. Compra una secchia o vendi la pompa ad alta voce. Sei capace di far vedere d'essere uomo. Blum, Eccles Street. Bello, sarcasticamente. Non vorrei urtare la tua suscettibilità per tutto l'oro del mondo, ma laggiù c'è un uomo in gamba che fa il galletto. È cambiata la canzone, mio bel giovanottino. È un uomo dei campi, cresciuto a brado. Buon per te, giuggiolone, se tu avessi quell'arnese tutto nodi e bozzoli e porri. Ha messo il catenaccio, puoi star tranquillo. Piede contro piede, ginocchio contro ginocchio, pancia contro pancia, capezzoli contro il petto. Non è un eunuco, vai. Gli spunta dietro un ciuffo di peli rossi come un cespo di ginestre. Aspetta i 9 mesi, ragazzo mio. Per dindirindina, le scalcia le tossisce di già su e giù per la pancia. Ti ci arrabbi, vero? Ti brucia, eh? Sputa in segno di disprezzo. Sputacchiera. Blum, mi hanno trattato in modo indecente. Io informerò la polizia. 100 sterline. Inqualificabile. Io. Bello, se tu potessi, ma non puoi, pulcino bagnato. Ci vuole altro che queste 4 gocce, ci vuole un risciacquone. Blum, è da impazzire. Moll, io ho dimenticato, perdonami, Moll, noi ancora. Bello, spietato. No, Leopold Blum, tutto è cambiato per volontà di donna da quando hai dormito orizzontale nella valle del sonno la tua notte di 20 anni. Torna. E guarda, la vecchia valle del sonno chiama fra le colline.